Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Commissione europea multa Facebook per aver collegato l'account social a WhatsApp, 110 milioni di euro. Ancora forte pressione sui mercati, Milano perde circa il 2%, rischio causa americana per Fiat Chrysler che perde il 6%. Molotov e scritte contro un'azienda che lavora al cantiere Tappe e si occupa dell'espianto degli olivi, in fiamme alcuni pali di legno. Pompei rubata una borchia di bronzo di 2500 anni fa, era in mostra insieme ad altri reperti. Italia ferita, dice il sovrintendente. Terremoto in Emilia, a 5 anni di distanza, 9 famiglie su 10 rientrate in casa, 400 scuole ricostruite, oltre 100 nuove. Morte improvvisa per Chris Cornell, tra le icone del grunge fu la voce dei Soundgarden e degli Audioslave. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. C'è il 349-238-6666 che è come sempre il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video, www.facebook.com/effettogiorno, così come siamo in diretta video anche dalla pagina Facebook di Radio 24. In apertura dunque la maxi multa comminata Facebook. Abbiamo lavorato su questo caso a lungo, ma non sappiamo i tempi della decisione. Così sulla vicenda Facebook-WhatsApp soltanto ieri si era pronunciata la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, e da Bruxelles proprio oggi è arrivata la decisione. L'antitrust europeo infligge una maxi multa da 110 milioni di euro a Facebook per aver fornito informazioni fuorvianti nel momento dell'acquisto di WhatsApp. Nel 2014 Facebook aveva assicurato alla commissione europea di non poter fare collegamenti tra gli account Facebook con quelli di WhatsApp, cosa invece realizzata nel 2016. La società di Zuckerberg però ha ammesso poi di aver commesso l'infrazione collaborando con la commissione, e quindi quest'ultima ha deciso di ridurre la multa a 110 milioni dai quasi 250 potenziali, perché avrebbe dovuto essere pari all'1% del fatturato 2016 del gigante social. Ma l'ok che la commissione europea diede alla fusione tra Facebook e WhatsApp resta valido, parola fine sulla vicenda, secondo un portavoce di Facebook che ribadisce: abbiamo agito in buona fede, gli errori non sono stati intenzionali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Sul fronte dei mercati la giornata anche oggi è negativa, prevalgono le vendite anche piuttosto pesanti dopo in realtà settimane e mesi di rialzi. Il FTSE MIB cede il 2,04%, il FTSE All Share il 2%, tutto questo dopo che ieri anche Wall Street è andata molto male. Fiat Chrysler sull'ipotesi di una causa che in arrivo dagli Stati Uniti cede il 6,4%. Come sempre sui mercati torneremo ad approfondire più avanti. Negli Stati Uniti intanto, che è uno degli elementi che ha innescato le vendite nella giornata di ieri, il Dipartimento di Giustizia americano ha nominato un commissario speciale per sovrintendere alle indagini sul cosiddetto Russia Gate, dalle interferenze di Mosca sulle elezioni presidenziali e possibili legami tra la campagna di Trump e agenti russi. Di questo invece torneremo a parlare come sempre alle 13.45 in America 24. Siamo invece alle questioni politiche italiane, con l'attenzione che è ancora concentrata sulla vicenda Consip, insieme anche sulla legge elettorale. Un attacco alla democrazia. Il PD definisce così la fuga di notizie dall'inchiesta Consip e la pubblicazione della telefonata fra Matteo Renzi e suo padre Tiziano, indagato per traffico di influenze. Sulla vicenda si fa sentire anche Giorgio Napolitano, secondo cui è ipocrita chi lamenta l'abuso della pubblicazione delle intercettazioni, perché il problema va avanti da anni e mai nessuno ha voluto mettere fine a quella che l'ex capo dello Stato giudica una insopportabile violazione. Ormai il Partito Democratico usa gli stessi argomenti di Berlusconi, e invece la replica che arriva da Speranza di MDP. Sempre da MDP, nel frattempo, dopo l'accelerazione del PD sulla legge elettorale, ad intervenire è anche Pierluigi Bersani, che definisce pasticciata la proposta dei Dem, il cosiddetto Rosatellum, e invita Prodi e Pisapia a riconsiderare le loro caute aperture. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono di questa mattina i dati dell'INPS, innanzitutto quelli che riguardano la cassa integrazione. Crollano le richieste di cassa integrazione ad aprile, nel mese sono arrivate alle aziende richieste per 23,9 milioni di ore, con un calo del 38,8% rispetto a marzo e del 58,1% rispetto ad aprile 2016, e sono state presentate in marzo 2017 all'INPS domande di indennità di disoccupazione, con un aumento del 12% su quelle di marzo 2016. Per restare ai temi economici, c'è la vicenda Alitalia. AAA vendesi tutta intero a pezzi all'Italia e sul mercato. Il bando per la sua cessione è pubblicato da ieri sul sito della compagnia dopo il via libera del governo. C'è tempo fino al 5 giugno per far pervenire le manifestazioni di interesse presso uno studio notarile romano. Il bando è aperto a singole o accordate e invita a indicare la soluzione scelta per risolvere la crisi e rilanciare la compagnia. Ristrutturazione, acquisto dell'azienda in blocco, acquisto dei beni e contratti, il cosiddetto spezzatino. Da metà giugno a metà luglio verrà invece aperta la cosiddetta data room, cioè la possibilità per i concorrenti di spulciare i dati di Alitalia. L'obiettivo è arrivare all'eventuale gara per le offerte vincolanti entro ottobre. Fra le compagnie interessate ci sarebbero Lufthansa, Ryanair e EasyJet, ma anche gruppi cinesi. Per i tre commissari straordinari che in questi minuti vengono sentiti in audizione alla Camera non c'è un partner ideale, sarà tale chi potrà contribuire di più al rilancio della compagnia. Resta intanto sospeso il capitolo relativo al costo del lavoro, che verrà messo sul tavolo solo in un secondo momento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Le vicende del gasdotto TAP Molotov contro un'azienda che si è occupata dell'espianto degli ulivi. Sentiamo. Stavolta a finire nel mirino è un'azienda di Carmiano, sempre nel Salento, Lamello, che si è occupata per conto di TAP dell'espianto, del trasporto e della nuova messa a dimora degli ulivi tolti temporaneamente dall'area di cantiere del microtunnel. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'interno del recinto di Lamello ed ha bruciato alcuni pali di legno. Appena qualche giorno fa Lamello aveva trasportato 11 ulivi in un nuovo sito per permettere a TAP la costruzione di una serra che deve proteggere meglio gli alberi. Ma i no-TAP attaccano anche imprese del Salento che con TAP non c'entrano nulla. Una scritta offensiva è stata infatti tracciata sul cantiere a Lecce di un'altra azienda che si chiama pure Mello, ma è solo omonima di quella coinvolta da TAP per gli ulivi. La bomba incendiaria è l'ultimo episodio di una lunga serie. Nelle scorse settimane infatti diversi sono stati gli atti vandalici nei confronti del cantiere del gasdotto e tutte le fasi dell'espianto degli ulivi sono state possibili solo grazie ad un massiccio schieramento di forze di polizia. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Melendugno, Lecce. Adesso ci spostiamo a Pompei, dove è stato sottratto un pezzo da una mostra in corso in queste ore, un pezzo che ha 2500 anni. Susi Malafronte, una collega giornalista del quotidiano napoletano Il Mattino. Buongiorno Susi, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, cosa è successo? Allora, è successo quello che non doveva accadere, perché praticamente è stato appunto sottratto questo oggetto antichissimo, come tu dicevi, dal valore inestimabile, perché non, appunto, non può essere riproducibile, da questa mostra visitata quotidianamente da circa 10.000 persone, perché appunto è molto molto bella. È successo che stamattina all'apertura della mostra i custodi si sono accorti che appunto mancava questo oggetto. I carabinieri si tratta di una borchia di bronzo, se non sbaglio, no Susi? E Osanna, il sovrintendente, ha detto che tra l'altro è un lavoro difficile che deve aver richiesto tempo, no? Sì, anche se la mostra è dotata di un servizio di videosorveglianza, però proprio in quel punto non ci sono telecamere. E quindi evidentemente non essendo coperta da telecamere, Osanna ha parlato anche di ferita per l'Italia, no? Certo, perché comunque è stata colpita la cultura in generale, perché questa era appunto una mostra bellissima. Per la prima volta si incontrava Pompei con i greci, quindi era una mostra al centro del mondo e molto molto attesa. È molto apprezzata. È molto importante. Dunque, grazie a Susy Malafronte, giornalista del Mattino, per averci dato questo aggiornamento. Noi ci spostiamo, restiamo sulla cronaca, ci spostiamo a parlare di terremoto e di Norcia, perché sono arrivati questa mattina degli avvisi di garanzia. Il reato ipotizzato nel fascicolo aperto dalla procura di Spoleto è quello di crollo doloso. L'inchiesta ha portato al sequestro dello stabile che a Norcia ha ospitato il centro operativo comunale, dichiarato inagibile dopo le scosse di terremoto del 30 ottobre 2016. Una struttura realizzata nel 2000 con i fondi stanziati per il giubileo e utilizzata come info point per l'accoglienza dei turisti nella città natale di San Benedetto. Dopo le scosse del 24 agosto scorso e l'inagibilità degli uffici comunali, ospitava proprio il centro di coordinamento dell'emergenza. Oltre al sequestro, notificati anche 11 avvisi di garanzia ad amministratori comunali, funzionari e tecnici dell'epoca responsabili della costruzione del collaudo. La magistratura punta ad accertare l'esatta entità dei danni alla struttura e le relative responsabilità. Nessuno degli attuali amministratori di Norcia, precisa il sindaco Nicola Alemanno, risulta coinvolto. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Norcia. E di terremoto, ma in realtà del terremoto in Emilia torneremo a parlare più avanti nel nostro giro per l'Italia, perché oggi sono state fornite le cifre della ricostruzione a 5 anni di distanza e dimostrano, stando evidentemente alle cifre che sono state fornite dalla regione, che la ricostruzione almeno là sta funzionando. Andiamo all'estero e andiamo a parlare dell'ISIS, che starebbe realizzando una sorta di centro, di centrale per la realizzazione di armi chimiche. L'ISIS sta formando una nuova cellula per le armi chimiche composta da tutti i suoi esperti in questo campo provenienti da Iraq e Siria. Ne è convinta l'intelligence statunitense, secondo quanto riporta la CNN, che cita un funzionario americano. La nuova task force dello Stato Islamico si sarebbe stabilita nella provincia siriana di Deir ez-Zor, nella valle del fiume Eufrate, precisamente tra Qaim e Mayadin, zona controllata dall'ISIS e molto vicina al confine iracheno. Per il Pentagono anche il califfo Abu Bakr al-Baghdadi potrebbe essere fuggito in quest'area, che di fatto sarebbe la nuova capitale dell'ISIS, a causa dell'enorme pressione militare esercitata su Raqqa da parte delle forze di coalizione e locali. Secondo gli esperti americani, l'ISIS starebbe consolidando le sue competenze in fatto di armi chimiche proprio per rafforzare la capacità di difesa delle sue rimanenti roccaforti, e lo farebbe in una scala senza precedenti, puntando ad organizzare una catena industriale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere questa prima parte della trasmissione, parliamo di musica. Ne parliamo però con una notizia dolorosa. Sono pochi a non ricordarsi questo pezzo, specie chi come la mia generazione, la generazione di quarantenni, è un po' cresciuta musicalmente negli anni 90, esattamente con il grunge. Parliamo dei Soundgarden e questa è la voce di Chris Cornell, che è morto a 52 anni a Detroit alla fine di un concerto. Voce di Soundgarden e poi degli Audioslave, e poi partito anche con una carriera solista. Il suo agente Brian Bamberi ha confermato la notizia, dicendo anche che la moglie e la famiglia del cantante sono sconvolti per il decesso, che è stato improvviso e inatteso. La sua musica, come avete sentito, comunque resta. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, parleremo tra le altre cose di questa nuova legge sul cyberbullismo, ascoltando, perché no, una voce critica. Andremo in Emilia Romagna a raccontare questa ricostruzione post terremoto e poi il terribile incidente occorso a Nicky Hayden mentre era in bicicletta. È in condizioni ancora critiche, questo ci dice il bollettino medico, ma riapre ancora una volta il dibattito sulla sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della maxi multa inflitta alla Commissione Europea a Facebook, dell'andamento dei mercati sui quali torneremo più avanti, della vicenda TAP con la Molotov lanciata contro un'azienda che lavora ai cantieri, del furto avvenuto a Pompei durante una mostra e anche della morte improvvisa di Chris Cornell. Mentre siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come in diretta su quella di Radio 24, in diretta video, e potete anche scriverci là e commentare là, oltre ai tanti saluti che ci arrivano durante questa diretta e che ovviamente ci fanno molto piacere. Iniziamo il nostro giro per l'Italia e andiamo innanzitutto a Milano, perché oggi è arrivato il ministro degli interni Minniti. Il tema è ancora quello che in parte sta dividendo la città e soprattutto i dintorni della città in queste ore, ed è quello dell'immigrazione e dell'accoglienza, perché è stato firmato un patto tra Milano, i comuni della cintura milanese, sotto l'egida del prefetto, per una distribuzione più diffusa appunto di profughi, richiedenti asilo e migranti. Oggi arrivo di Minniti con annessa protesta dei sindaci leghisti. Adriano Palazzolo sta seguendo tutto questo. Adriano, buongiorno, dacci un quadro della situazione là dalla prefettura, se non erro, no? Buongiorno Simone, sì, buongiorno anche agli ascoltatori. Io sono ancora in prefettura, dove si è concluso proprio pochi minuti fa la firma del protocollo. Sono 76 su 134 i sindaci che hanno aderito a questo protocollo, che serve per coinvolgere il più possibile i comuni nell'ospitalità dei richiedenti asilo. Il protocollo è stato ideato e presentato dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese e prevede che i sindaci reperiscano loro stessi nei propri territori unità abitative da destinare ai migranti assegnati. In cambio però la prefettura si impegna ovviamente a escludere i comuni aderenti al protocollo dai bandi sull'accoglienza. Presente era anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha detto che la sua città è in prima linea ovviamente sul tema e che è solo l'isola più grande di un arcipelago fatto di tante altre realtà. Ascolta Adriano, quindi da come funziona questo protocollo e da quel che si è capito, in sostanza i comuni che danno disponibilità, sì, e sono volontari per così dire, in quel caso i sindaci intervengono direttamente, scelgono loro i luoghi nei, sì, quali reperiscono loro le abitazioni, i luoghi dove i profughi, i migranti o richiedenti asilo possono andare. Invece gli altri comuni di fatto non verranno esentati da un'eventuale assegnazione di migranti. Subiranno le direttive del prefetto del ministero per via ovviamente della prefettura, in unità abitative che, se non verranno ovviamente reperite dai sindaci, verranno reperite dal prefetto con caserme o strutture insomma demaniali. Era presente ovviamente anche il ministro, come dicevi tu, che parlando delle strategie per affrontare il problema dell'immigrazione ha ricordato la consegna pochi giorni fa a Tripoli di alcune motovedette alla Guardia Costiera Libica con agenti che hanno ricevuto una formazione italiana, e poi ha ricordato anche un incontro che lui avrà nei prossimi giorni con alcuni omologhi africani, parlando dell'Africa come specchio dell'Europa nei prossimi anni. Minniti poi ha concluso il suo discorso con una raccomandazione, ha detto: non dimentichiamo due diritti fondamentali, che sono quelli sia di chi è accolto in Italia, ma anche di chi accoglie, e ha detto che non dobbiamo far sentire solo nessuno da entrambe le parti. E ha concluso dicendo che questo protocollo presentato oggi, il modello Milano, non è solo presentato all'Italia, ma a tutta l'Europa. E ti ringrazio, grazie dunque al nostro Adriano Palazzolo per questa diretta dalla prefettura, dalla quale ci ha spiegato anche delle cose di come funziona questo sistema. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nell'applicazione pratica di questo protocollo firmato a Milano. Parliamo invece di una legge che è stata approvata ieri, che è quella contro il cyberbullismo. Sono state molte le voci a favore di questa legge, che dà una prima definizione legislativa del bullismo quando avviene appunto tramite mezzi tecnologici. Si parla di aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali. Questo si dice, ci sarà in ogni scuola un insegnante antiprepotente, ci sarà la possibilità di un ammonimento da parte del questore, la possibilità di denuncia anche da parte degli stessi minorenni. Siamo in linea con Mario Rusconi, che è vicepresidente dell'associazione Presidi. Rusconi, bentornato ai nostri microfoni, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Che anche insegna processi organizzativi della Scuola dell'Autonomia all'Università Roma 3. Rusconi, oggi abbiamo letto un'intervista sulla stampa nella quale lei si dichiara piuttosto critico nei confronti di questa legge. Come mai? Ma guardi, più che critico riguardi della legge, sul fatto che il nostro Parlamento spesso fa delle norme, direi, le ho definite pleonastiche, cioè già molte delle cose che sono inserite nella legge sono già, diciamo, realtà quotidiana. Il fatto che il preside debba intervenire su queste questioni, che gli insegnanti debbano curare la formazione degli studenti, ecco, la novità magari possono essere quelle di tipo, dico tra virgolette, repressivo, cioè che lo studente che fa un atto di ciberbullismo, mi permetto di dire che in italiano si dice ciberbullismo, che un atto di ciberbullismo deve essere poi, deve finire magari in questura e così via, e la cosa riguarda in modo particolare i minorenni. Quindi la mia perplessità non era sul fatto che il Parlamento ha preso in esame un aspetto difficile, diciamo, della crescita dei nostri studenti, è che sta legiferando su aspetti che già sono ben normati. Il dire che per esempio il preside deve, sotto sotto, avendo un po' come retropensiero, mi permetta di essere un po' andreottiano in questo, come retropensiero il fatto che il preside, attenzione, se no si sottrae, significa non sapere che essendo il preside un dirigente pubblico ha l'obbligo del rapporto, cioè di fare un rapporto all'autorità giudiziaria quando sa che esiste qualche cosa di estremamente negativo. Cioè, ci sono esempi di presidi Rusconi, che non Rusconi ha... per riassumere un po', mi scusi, la sostanza di quello che lei dice è questa: era inutile normare questa fattispecie, perché in realtà le norme contro il bullismo e quello che devono fare i presidi, quello che devono fare gli insegnanti, è già abbastanza chiaro di per sé. Poi, come dire, un conto è questo, un conto è che le norme ci siano, un conto è l'applicazione pratica, che poi non sempre è uniforme in tutte le scuole, anzi. Ecco, io mi aspetto da una legge di questo tipo che almeno dica: ci sono queste risorse per le scuole, per gli insegnanti, per la formazione degli insegnanti, per cui deve diventare uno degli elementi fondamentali del loro aggiornamento anche tutte le tecniche psicopedagogiche da applicare in campo educativo. Il far credere all'opinione pubblica che semplicemente acuendo un po' quelli che sono gli spazi relativi alla repressione, la questura eccetera, si risolve il problema è un po' un'araba fenice. I problemi si risolvono con l'educazione in famiglia, che spesso non c'è, e soprattutto con un messaggio incisivo, forte, formativo della scuola, il che vuol dire formare dei docenti, e su questo siamo ancora abbastanza indietro sulla loro formazione. L'ultima domanda che le voglio fare, Rusconi, lei sottolinea anche il rischio, per così dire, di delazione, cioè ricordiamoci che qua c'è la possibilità nella legge per i ragazzini tra i 14 e i 18 anni, quelli sotto devono necessariamente passare dai genitori, di sostanzialmente andare a denunciare direttamente. Ora, ricordiamoci anche che ci sono dei ragazzini di 14 anni, ce ne sono estremamente maturi e ce ne sono anche di estremamente immaturi. Lei dice, in sostanza, il rischio è che per qualsiasi scemenza, che magari non ha nulla a che fare col cyberbullismo, poi si finisca per passar dalla polizia. Infatti questo è uno dei rischi, e infatti io da una legge di questo tipo mi sarei aspettato che venisse istituito il servizio di psicopedagogia nelle scuole, che incautamente il Parlamento italiano ha eliminato da 20 anni a questa parte. Cioè, se si vuole fare un intervento serio sulla formazione dei nostri studenti, bisogna fare in modo che in ogni scuola ci sia un'equipe psicopedagogica, cosa che adesso non c'è, laddove esiste, perché ci sono genitori ricchi, diciamo, usiamo questo aggettivo, che tirano fuori i soldi per pagarsi, il che vuol dire che non è democratico, perché nelle scuole povere, tra virgolette, dove i genitori non hanno un ambito socio-economico alto, non abbiamo nessun supporto psicopedagogico, e questo è grave. Quella legge ha questo vulnus che è forse il maggiore. La ringrazio, grazie a Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Presidi, col quale abbiamo voluto farvi sentire una voce dissonante rispetto a quelle che avete sentito in queste ore in merito a questa legge sul cyberbullismo. Ci spostiamo in Emilia Romagna per parlare della ricostruzione post terremoto, e ci ha raggiunto in studio, gli ascoltatori che ci seguono nella diretta video su Facebook l'avranno già vista, la nostra Raffaella, è là la telecamera, Raffaella, la nostra Raffaella Calandra, che dall'Emilia Romagna tra l'altro è appena tornata. Ci saranno nel fine settimana dei reportage che dedichiamo, non questo, quello successivo, dei reportage che dedicheremo proprio alla ricostruzione a 5 anni di distanza. Com'è la situazione? Oggi sono stati forniti i numeri, Raffaella, no? Sì, sono stati forniti i numeri che raccontano quello che anche visivamente mi è stato possibile constatare, che innanzitutto nessuno più vive nei moduli abitativi provvisori e che oggi, proprio in quel parcheggio dove prima sorgevano tutte le casette di alluminio, i MAP, oggi ci sono parcheggiate le roulotte dei giostrai per la Fiera di Mirandola che in questo weekend appunto si tiene. E questa è un'immagine che dà innanzitutto, credo in modo abbastanza esplicito, il senso di una ricostruzione che 5 anni dopo ha ancora molto da compiere davanti a sé, ma che ha raggiunto di sicuro un primo traguardo importante. Quel terremoto 5 anni fa uccise 28 persone, ne lasciò 45.000 senza casa. Ebbene, questa mattina la regione ha diffuso i dati con il quadro della situazione e ha fatto sapere che sono già 14.700 le famiglie rientrate nelle loro case, più di 5.000 i cantieri già completati per 12.000 case e 3.000 attività commerciali. Tanto che devo dire che il suono di gru e martelli pneumatici lo si sente forte passeggiando per questi centri storici, che però sono in gran parte ancora puntellati, soprattutto nei loro luoghi più simbolici, le chiese, i municipi, i teatri. Le scuole ancora, 417 quelle restaurate, 118 quelle nuove, e proprio in una scuola il 29 maggio andrà il capo dello Stato Sergio Mattarella. Quello è stato anche un terremoto che ha colpito una delle aree più produttive d'Italia, quella che produce il 2% del nostro PIL. Ebbene, riattraversare, noi l'abbiamo fatto devo dire tutti gli anni da quel 2012, quindi è stato un graduale renderci conto di questo passo in avanti, riattraversare quelle zone dei capannoni ci ha fatto vedere anche come la ricostruzione anche lì abbia portato ad una attività ancora più forte di quella che era prima. E tutti questi sono bei segnali che tu hai raccolto anche in una serie di voci, no? Sì, allora innanzitutto io vorrei far sentire quello che proprio degli abitanti di Mirandola mi hanno detto passeggiando nel centro storico. Cominciamo a metterci a posto, piano piano. Sono 84 anni, detto di nuovo, però neanche per quell'anno appartamento. C'è freddo, c'è caldo in estate. Dopo 5 anni il fatto che non ci sia più nessuno nei moduli è anche un bel successo. Sì, certo. Subito dopo il terremoto era morto, adesso sta risorgendo, insomma, ecco. I commercianti stanno rientrando pian pianino. Si può dire che voi non avete mai abbandonato davvero questo centro storico? No, non l'abbiamo mai abbandonato, insomma, ecco. Ecco, qual è in questo momento per gli abitanti di Mirandola il punto di riferimento simbolico che desiderereste avere aperto? Le chiese c'è un notevole ritardo. E grazie anche ad Andrea che ci scrive da Mirandola via SMS al 349-238-6666 e ci ringrazia a sua volta proprio perché ci ricordiamo di loro e ci ricordiamo del terremoto. Devo dire, posso raccontare un piccolo aneddoto che devo dire è stato anche un motivo di grande soddisfazione. Sono tornata in un'edicola del centro di Mirandola dove ero stata anche in questi giorni anche per leggere i giornali locali, e due anziani titolari di questa edicola mi hanno anche riconosciuta perché ero andata lì più volte, e anche loro, come questo nostro ascoltatore, ci hanno voluto ringraziare, perché nelle zone colpite dal terremoto, e non lo sappiamo anche col pensiero del Centro Italia, non c'è nulla che si desideri di più come di continuare a raccontare i passi in avanti, nella consapevolezza che anche il racconto dei ritardi che comunque ancora ci sono, perché anche qui in Emilia tanti restano i problemi, può aiutare ad accelerare e quindi a tornare ad una normalità che è quello che tutti desiderano. A chiudere le imprese, Raffaella? A chiudere, dicevo, le imprese, capannoni crollati su operai e su titolari delle aziende che hanno ricostruito e che ora producono come e più di prima, soprattutto in questo distretto biomedicale di Medolla, Cavezzo, Mirandola, e sono andate così tanto il trauma del terremoto non solo non ha fatto delocalizzare, ma si è trasformato in alcuni casi in energia positiva, tanto che ora programmano per gli inizi del 2018 una fiera dell'innovazione, come ci ha raccontato Alberto Nicolini. Ci siamo resi conto che la ragione principale per cui le multinazionali che avevano avuto con il disastro del sisma l'opportunità magari di delocalizzare in altre zone a basso costo di manodopera hanno scelto di investire ancora di più nel territorio e nel distretto, e la risposta che ci siamo dati è la professionalità che aiuta a fare innovazione. Così, dunque, da Mirandola, e non solo da Mirandola, dalle aree dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto, grazie alla nostra Raffaella Calandra, che ritroveremo appunto, come diciamo, con due reportage, non questo fine settimana, quello dopo, quindi rimanete in ascolto, ma anche i reportage di questo fine settimana sono belli, eh? Non è che, insomma, facciamo dei bei lavori sempre. Grazie Raffaella Calandra, dunque. Ci andiamo a fermare, sentiamo che cosa succede sui mercati, e poi il primo argomento che affronteremo, ve lo voglio dire con un messaggio che ci è appena arrivato durante la nostra diretta Facebook, sulla nostra pagina Facebook di Effetto Giorno. Un ascoltatore, si chiama, il nome credo che sia un nick ma non ne sono sicuro, Nika Ford, dice: per quanto riguarda l'incidente a Nicky Hayden, so cosa vuol dire perché anch'io un anno fa sono stato coinvolto e alla fine dei conti un morto, mia moglie ancora in coma vigile, il terzo fratture al braccio e io l'unico che si è salvato e ora soffro accanto a mia moglie. Parliamo dunque di sicurezza per le persone che viaggiano in bici sulle nostre strade, a partire da questa vicenda di cronaca di Nicky Hayden, ma con nella mente le persone che soffrono e hanno sofferto quotidianamente per incidenti di questo tipo. A tra poco. Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: sulla legge elettorale c'è l'altolà di Bersani, è l'ennesimo pasticcio la proposta del PD, difficile che si trovino i numeri al Senato. La Commissione Europea ha multato Facebook per aver collegato l'account social a WhatsApp, 110 milioni di euro. Molotov e scritte contro un'azienda che lavora al cantiere TAP e si occupa dell'espianto degli ulivi, in fiamme alcuni pali di legno. A Pompei è rubata una borchia di bronzo di 2500 anni fa, rimostra insieme ad altri reperti. Italia ferita, dice il sovrintendente. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, dove c'è qualche problema di video. In questo momento c'è una specie di freeze, una specie di foto, sembro la scimmia di Gabbani, sembro. Però insomma, vediamo se riprende il video. Nel frattempo passiamo ad argomenti un po' più seri. Le condizioni di Nicky Hayden, il campione statunitense di Superbike, restano critiche. È stato investito mentre andava in bicicletta con la sua bici da corsa e con altre persone, ma i casi non si contano. Sono negli ultimi due giorni un ciclista è stato investito ed è morto in un incidente stradale che si è verificato in provincia di Chieti. Questa è di oggi. Ieri pomeriggio un incidente con una donna ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Stefano, anche qua investita appunto mentre andava in bicicletta. La vicenda di Michele Scarponi lo sappiamo, il ciclista morto dopo essere stato investito da un furgone mentre si stava allenando. E poi la storia che abbiamo raccontato poco fa, che in realtà è una storia che ci arriva da Giampaolo, un nostro ascoltatore, che racconta che sua moglie ancora adesso è in coma vigile dopo che sono stati investiti mentre andavano in bicicletta. Giulietta Pagliaccio, presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti quanti voi, grazie per l'invito. Allora, c'è una legge che è là, ferma in Parlamento da due anni, che riguarda proprio la sicurezza dei ciclisti, no? Esattamente, c'è una legge quadro, una legge delega per riorganizzare il codice della strada, e il codice della strada che prevede nella nuova forma alcune cose indicative per la sicurezza di tutti noi, ad esempio il controllo della velocità con il limite dei 30 all'ora nei centri cittadini, l'aspetto della condivisione degli spazi, la riorganizzazione del traffico urbano, insomma tante cose che sono necessarie anche ai sindaci poi per poter mettere mano alle proprie città. Ed è fermo da due anni e mezzo, non si capisce bene. Questa cosa è inaccettabile. Molti ascoltatori ci scrivono che a volte sono gli stessi ciclisti i primi a non rispettare il codice della strada, si entra nelle strade contromano, ci si muove a volte insomma un po' come se si fosse a piedi, mentre invece sei sempre su un mezzo, e un mezzo tra l'altro scarsamente protetto, nel senso, no, che basta essere toccati per farsi molto male. Che cosa risponde a questo? Che io capisco che ognuno si cerchi poi delle attenuanti generiche. Siamo in una nazione dove l'automobilista medio non conosce limite di velocità, perché la segnaletica è solo un'indicazione, dove parcheggia ovunque, in barba a handicap, mamme con magari il passeggino. Ecco, io sono un po' sì. stanca. No, però Pagliaccio, no, però mi scusi, però questa è una mi perdoni, sì, io sono un automobilista, non sono sì. un ciclista, però questa è una visione un po' distorta del mondo della gente che va in auto, perché è pieno di bravissima gente che rispetta tutte le regole ne e fa le cose fatte bene. Così come nel mondo dei ciclisti, no? Ci sono un sacco di persone che le regole non le rispettano, no? Infatti, ne sono assolutamente convinta. E sono convinta che tutte quelle persone che generalmente, normalmente rispettano il codice della strada, lo fanno anche in bicicletta. Stiamo parlando poi appunto di eccezioni, forse tra gli automobilisti, eccezioni forse tra i ciclisti. Il tema è molto più complesso, il tema è che spessissimo non ci rendiamo conto che stiamo utilizzando un mezzo di trasporto potenzialmente pericoloso e abbiamo delle città che sempre più spesso hanno altri soggetti nella strada e di questa cosa qua l'automobilista medio fa fatica, ma ci sono anche degli studi psicologici a questo riguardo. All'interno dell'abitacolo dell'auto si percepisce l'altra auto. Molto più difficilmente si percepisce un altro soggetto, che può essere il pedone, il ciclista, lo stesso motociclista. Quindi è una situazione veramente molto molto complessa che andrebbe affrontata come un'emergenza, perché di questo stiamo parlando. E quante vittime ci sono state tra i ciclisti negli ultimi anni? Ma allora, noi abbiamo un dato del 2015 che peraltro, voglio anche spezzare una lancia, voglio dire, c'è un in qualche modo un po' di chiarezza su questa cosa va fatta e abbiamo nel 2015 un numero di ciclisti minore di vittime ovviamente della strada, si parla di 251 ciclisti che hanno perso la vita, che sono sempre troppi, ma parliamo anche di 602 pedoni, di 891 motociclisti, di 1500 automobilisti. Io non faccio distinzione, sono sì. tutte vittime della strada e a questo bisogna porre rimedio. Allora, io la ringrazio, grazie a Giulietta Pagliaccio, presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Vedo che vi state scatenando su questa cosa qua e magari ci torneremo nei prossimi giorni con un'altra voce, anche con una voce diversa magari rispetto alle opinioni della presidente della FIAB, che ringraziamo comunque. Il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.